100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Questa sera il Consiglio dei Ministri approverà il decreto per rendere più veloci i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici assenteisti. Intorno a questa vicenda si sono registrate molte polemiche. Da un lato il governo, anzi lo stesso presidente del Consiglio Renzi, che insiste sulla necessità di colpire in tempi brevi i furbetti del cartellino, per intenderci chi timbra e poi lascia il posto di lavoro, fa timbrare ai colleghi, gente da licenziare in 48 ore. Dall'altro lato chi, come l'ex ministro Brunetta, sostiene che le norme attuali, previste peraltro dalla sua riforma, già consentono la massima severità contro i disonesti. Vedremo stasera che cosa accadrà. Va detto però che proprio ieri il comune di Sanremo ha licenziato i primi 4 dipendenti coinvolti in una clamorosa inchiesta per assenteismo e altri ne licenzierà nei prossimi giorni. L'inchiesta era partita a ottobre con decine di arresti, decine di indagate, persone sospese dal servizio. Ora arrivano i primi licenziamenti. Il comune di Sanremo forse aveva fatto poco per evitare che quei fatti accadessero, ma ora ha reagito bene, con efficienza nel gestire gli aspetti disciplinari. Sono bastati circa 3 mesi per arrivare al licenziamento, come detto, dei primi 4 dipendenti. Il governo ora vuol fare di più, vuol rendere ancora più veloce il procedimento grazie alla sospensione entro 48 ore e poi licenziamento entro 30 giorni. Una scommessa tutta da giocare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La Commissione europea ha confermato di aver avviato un'indagine per stabilire se il sostegno finanziario che lo Stato italiano ha concesso all'Ilva rispetti le norme sugli aiuti di Stato. Il caso Ilva si conferma quindi come un fronte di contrasto tra l'Italia e la Commissione UE e va ad aggiungersi ai molti dossier già aperti: le regole sulla flessibilità di bilancio, la questione dell'accoglienza dei rifugiati e poi anche le delicate vicende dei salvataggi bancari. Sull'Ilva la Commissione intende capire se i finanziamenti agevolati concessi per ammodernare e risanare lo stabilimento di Taranto, che ricordiamolo è la più grande acciaieria d'Europa, determinano un vantaggio sui concorrenti. Questa indagine tuttavia non ferma il risanamento del polo di Taranto, che potrà quindi essere effettuato. Ora sotto osservazione ci sono le risorse destinate all'Ilva. Si tratta, secondo Bruxelles, di circa 2 miliardi, tra cui 400 milioni per un primo prestito garantito dello Stato, poi altri 300 milioni con il decreto di fine anno e poi gli 800 milioni necessari proprio per la bonifica ambientale. È una partita complessa perché l'industria siderurgica in Europa sta facendo i conti con una pesante sovraccapacità produttiva. Quindi l'indagine di Bruxelles è anche la risposta al pressing di molti paesi e di molti produttori concorrenti che accusano l'Italia di voler tenere artificialmente a galla l'Ilva, causando così una distorsione della concorrenza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.